Questa storia mi ha trovato 3 anni fa. Ero in macchina e stavo andando a una riunione davvero importante. Quando dalla radio, se non sbaglio, credo fosse Radio 3, hanno cominciato a parlare di un articolo che Roberto Brunelli aveva pubblicato sull'Unità qualche giorno prima, che raccontava appunto la storia di questo pugile zingaro durante il periodo del Terzo Reich. Ed era una storia totalmente drammatica, una storia dolorosa, eppure mi affascinava totalmente. Mi affascinava a tal punto che, pur di sentirne la fine, una volta arrivato nel punto in cui avrei dovuto fare la riunione, ho chiamato le persone con le quali avrei dovuto trovarmi e ho detto loro che la macchina non partiva. La cosa buffa è che, se solo si fossero affacciati alla finestra, mi avrebbero visto dall'altra parte della strada con la faccia inebetita, intento ad ascoltare la fine della storia. La questione è che sentivo che, pur con tutte le dovute differenze, quella storia mi apparteneva. Sentivo che quella storia avrebbe potuto essere la mia storia. E anche nei giorni seguenti, una domanda continuava a girarmi dentro e a battermi come un tarlo. E quella domanda era: arrivato a che punto l'essere umano smette di lottare? E allora immaginate anche voi, anzi, vi do del tu. Immagina anche tu questa sera di chiamarti Johan Trollman, detto Rukeli, e di essere nato nei sobborghi poveri di Hannover nel 1907. Immagina che la tua famiglia sia zingara, di origine sinti. Di tirare di box fin da quando avevi 8 anni, che l'unica cosa che davvero ti riesce nella vita è boxare, che l'unica cosa che ti rendi conto che puoi stirparti dalla miseria è boxare. Immagina di essere un peso medio di 73 kg, che a soli 22 anni esordisce tra i professionisti e che fin da subito comincia a vincere. Perché tu su quel ring non ci stai come tutti gli altri. Tu su quel ring danzi, danzi, danzi, danzi, 30 anni prima di Muhammad Ali. E non una danza qualsiasi, ma una danza zingara, indiavolata, che abbatte avversario dopo avversario. Immagina che il pubblico ti ami e che ad ogni tuo incontro il boato della folla sia almeno il doppio rispetto a quello di qualsiasi altro incontro. Perché? Perché gli uomini ammirano il tuo coraggio e le donne impazziscono per quel tuo fare sfrontato. Immagina di essere una vera e propria celebrità, il pugile più famoso di Germania. Ma metti anche che è il 1933 e che in quell'anno in Germania si assiste all'ascesa del Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler e delle sue teorie sulla pura razza. E metti pure che Hitler nel Mein Kampf ha dichiarato di amare la boxe e che tutti i club pugilistici del paese ora vengono arianizzati e che la stessa boxe in Germania non si chiami più boxe. Ora si chiama Deutscher Faustkampf, pugilato tedesco. Immagina questa sera di chiamarti Johan Trollman, detto Rukeli, e di essere nella Germania nazista un pugile zingaro di origine sinti. Hai sentito che si dice in giro? Con le nuove leggi di Norimberga, gli ebrei non sono più considerati umani. Anche il mondo della boxe cambierà. Nessun ebreo potrà più boxare in Germania. Trolla. Erik Selig, il campione, è ebreo, dovrà restituire il titolo. Sai che significa trolla? Titolo dei pesi medio massi. Giugno 1933, Berlino. Ora sei solo nello spogliatoio della birreria Bock, a pochi minuti dall'incontro che potrebbe cambiarti la vita. Dovresti essere pronto, concentrato. Questa per te dovrebbe essere l'occasione del riscatto, quella che aspettavi fin da quando ti estromisero dalle Olimpiadi di Stoccolma a favore di un pugile tedesco che pure avevi già battuto diverse volte. Dovresti essere pronto, concentrato. Ma il fatto è che tu sai che se stasera ti hanno voluto qui a combattere per il titolo, non è perché ti ritengono degno, né tantomeno per la tua bravura. Sai che per loro tu sei solo un errore. Un errore, perché sei zingaro. Un errore, perché il pubblico ti ama. E un errore, perché continui a vincere. E sai bene che nel loro mondo, ossessionato dall'ordine, ogni errore deve essere corretto. Conosci il significato del termine propaganda. Conosci le regole del gioco. Prendi un pugile, zingaro, che guarda caso è il più famoso di Germania. Dai lui l'occasione di poter combattere per il titolo e la gente accorrerà numerosa per vederlo. Mettigli contro un bestione di pura razza che gli sia di almeno 20 libbre superiore, un picchiatore, uno contro il quale sia praticamente impossibile vincere, e il gioco è fatto. Il pugile zingaro al tappeto, il popolo zingaro sconfitto e la supremazia ariana dimostrata con l'evidenza dei fatti di fronte a migliaia di testimoni. Ed è questo quello che ti fa più paura, molto più dei pugni del bestione che ti aspetta lì fuori. E allora ti viene in mente tua madre e di come, quando eri piccolo e avevi paura, si metteva di fronte a te e ti chiedeva come ti chiami, e di come tu allora rispondevi io, e di come lei ti diceva no, no, il tuo nome è Sinti, qual è? Di come tu rispondevi Rucheli, Rucheli, il mio nome Sinti è Rucheli. E cosa significa? Cosa significa Rucheli? Albero, albero, albero, albero, dicevi. Rucheli significa albero, albero, albero. E di come più lo dicevi, più sentivi il coraggio salire. Albero, albero, albero, albero, albero, albero. E di come lei allora ti fermava, ti guardava dritto negli occhi e ti diceva Johan Rucheli Trollman, un albero non cade, si ha radici profonde. E allora esci dallo spogliatoio, 15 metri ti separano dal ring e li percorri a modo tuo, a testa bassa. Sali sul quadrato, ti guardi intorno, gli spalti sono gremiti, il pubblico mastica il tuo nome, Rucheli, Rucheli, Rucheli, Rucheli. Nelle prime file, quelle riservate agli ufficiali nazisti, riconosci Georg Raddam, il gerarca, anche presidente dell'Unione Pugili Tedeschi. E infine... E infine eccolo, il tuo avversario, Adolf Witt, un gigante biondo di pura razza superiore che incarna perfettamente l'ideale del combattente appoggiato dal regime. Guardia alta, gambe ben impiantate a terra, massima forza d'urto e ottima resistenza ai colpi. Il colosso ariano ti supera di almeno due spanne in altezza. Non puoi competere con lui né per peso, né per mole, né tantomeno per potenza. L'unica cosa sulla quale davvero puoi contare è l'agile movimento di gambe, lo schivare armonico e l'affondo efficace. Ti dici che un gigante di questa stazza non può essere anche agile. E se così fosse, così sia. E allora fin dal primo round danzi, danzi, danzi attorno all'avversario. Lo ipnotizzi con un rapido movimento di gambe e lo colpisci una, due, tre, dieci, cento volte. Adolf Hitt, il gigante ariano, sembra non capire cosa stia davvero accadendo. Continua a subire e non riesce a colpirti se non buttandotisi addosso. Una, due, tre, dieci, cento volte, cento colpi. Tu sei lo zingaro, sei vento e i tuoi pugni tempesta. E allora danzi, danzi, danzi, danzi, danzi, danzi come fossi fuoco, un ritmo indiavolato come fosse festa. Uno, due, tre, dieci, cento colpi di tempesta. Giunti all'inizio della sesta ripresa, continui a martellare il colosso, lo sfianchi, lo torturi, lo sgretoli, lo fai a pezzi e il colosso barcolla. Bisogna avere radici profonde per non cadere. E l'ariano di sangue puro, ora, la faccia pesta, l'occhio semichiuso ed acquoso, pare a malapena capire dove si trova e barcolla. Barcolla sempre di più. Uno, due, tre, dieci, cento volte, cento colpi. Potresti buttarlo a terra in un istante, ma tu aspetti ancora e danzi, danzi, danzi, danzi, danzi, danzi, danzi. Il pubblico ormai attende solo il colpo del knockout. Anche Adolf Hitler ormai sembra aspettare solo quello. E allora, eccolo, quell'attimo di sospensione in cui il annullare! L'incontro deve essere annullato! È scientificamente impossibile che un misero peso medio zingaro possa sconfiggere un colosso di pura razza come Adolf Hitler! Annullare! Ora sei solo al centro del ring. Tutto attorno ti avvolge come un silenzio irreale. Georg Radam, il gerarca, ha deciso da solo le sorti dell'incontro. Conosci le regole del gioco, ma non credevi che la loro follia razzista potesse spingersi al punto di negare l'evidenza di fronte a migliaia di testimoni. Annullare. Beh, è in quel momento che qualcosa accade. Improvvisamente il pubblico comincia a vociferare e in un attimo quelle voci si fanno urla e grida e bottiglie lanciate. Questo pubblico, il tuo pubblico, amante della box, non accetta che l'incontro possa essere falsato per fini politici. E ora il pubblico è tutto in piedi e con calci, sedie e pugni muove verso il ring. Gli ufficiali nazisti sono costretti alla fuga. Il pubblico ormai sale sul ring, qualcuno ti abbraccia, qualcun altro ti bacia, qualcun altro ti alza le braccia in segno di vittoria. Le lacrime ormai ti segnano il volto. Radam, l'arbitro e i giudici sono costretti ad arrendersi all'evidenza dei fatti e a proclamare te, Johan Rukeli Trollman, campione nazionale dei pesi medio-massimi! Anche Boxsport, la massima rivista di settore, che fino a qualche tempo prima acclamava la tua grande umanità, ora definisce le lacrime che ti hanno segnato il volto dopo l'incontro comportamento pietoso ed effeminato, sicuramente non degno di un vero pugile. I suoi giornalisti, che definivano i tuoi movimenti sul ring una geniale danza per disorientare l'avversario, ora, arianizzati, li definiscono un vigliacco modo per sottrarsi ai colpi. Ed è vero che Reich ha già dimostrato tutto il suo potere con la revoca del titolo. Ma è anche vero che fino ad oggi il suo potere si è basato sul consenso del popolo. E quel che il popolo ha visto quel 9 giugno a Berlino è stato un misero peso medio zingaro distruggere ed umiliare sportivamente uno dei massimi esponenti del pugilato ariano. E così eccola la loro proposta ufficiale. Si presenta con le sembianze del nuovo presidente della BBD, la massima istanza di controllo del pugilato tedesco, Hans Joachim Heil. Mio caro Trollmann, io l'ammiro. Tutta la Germania ammira il suo coraggio. Ed è proprio perché la Germania sta diventando sempre di più il paese delle grandi opportunità che abbiamo deciso di darle una seconda occasione, Trollmann. Lei potrà combattere ancora, questa volta il 21 luglio. Il suo avversario sarà Gustav Eder, attuale campione dei pesi welter. Per questo nuovo incontro, però, abbiamo pensato di suggerirle alcune piccole regole che lei dovrà seguire. Questa volta non potrà allontanarsi dal centro del ring, non potrà muovere le gambe, dovrà accettare un regolare scambio di colpi e non potrà accennare una di quelle sue danze. Se lei non dovesse seguire anche solo una di queste piccole regole, ci vedremo costretti, Trollmann, a ritirarle permanentemente la licenza di pugile. Ma mi dia retta, Trollmann. Il pubblico la ama. Non lo deluda. Combatta come un vero ariano questa volta. E se tutte queste motivazioni ancora non la convincono, Trollmann, mi dia retta, lo faccia per la sua famiglia. Praticamente, come chiedere ad un'aquila di combattere nella vasca del coccodrillo. In poche parole, Johan Rukeli Trollmann, devi combattere, devi farlo come un ariano e nel farlo devi perdere. Combattere per la propria famiglia, combattere anche se devi perdere, combattere se combattere, senza perdere la dignità. Combattere, senza dimenticarsi mai, mai, perché si combatte. Luglio 1933, Berlino. Il pubblico ancora ti ama. Il pubblico vuole la box. Il pubblico vuole la tua box. Il pubblico vuole la rivincita di Rucker, l'albero. Ed ora eccoci giunti all'evento più importante della serata. All'angolo destro, in calzoncini neri, il picchiatore di Dortmund, l'imbattuto Gustav Eder. E all'angolo sinistro, in calzoncini bianchi, lo zingaro del ring, Johan Cipsi Trollman. Cappelli tinti di biondo, talco a coprire e imbiancare tutto il corpo. Le regole che ti avevano dato d'altronde erano chiare. Volevano un pugile ariano. E questo è quello che hai deciso di dargli. Questa sera sul ring nessuno vedrà Rucheli. Questa sera il pubblico vedrà solo come combatte un vero ariano. L'incontro ha inizio. Eder ti guarda come si guarda il nemico, stringe i denti, dilata le narici e tende ogni energia all'estremo, pronto alla distruzione. Tu sei pronto, batti i guantoni 1, 2, 3 volte, respiri, guadagni il centro del ring e non appena entrato in rotta di collisione con il tuo avversario ti fermi. Eder colpisce, continua a colpire. Colpisce al volto, al corpo, ai fianchi. E ancora al volto, al corpo, ai fianchi. Colpi corti, colpi secchi, colpi uno dopo l'altro. Un vero e proprio fuoco di fila di annientamento dello zingaro. E tu, la guardia abbassata, le gambe immobili, subisci e non reagisci. Al corpo, al volto, ai fianchi. Eder colpisce. Colpisce, continua a colpire, colpisce l'ariano, colpisce il bianco e non pare rendersene conto. Al corpo, al volto, ai fianchi e ancora al corpo, al volto, al volto, al volto. Così, per 4 riprese. Poi, improvvisamente, all'inizio della 5ª ripresa, guardi gli occhi del tuo avversario. E tutto quel che vedi è rabbia. Tutto quel che vedi è impotenza. All'improvviso è tutto rallentato. Vedi le sue pupille dilatarsi, i suoi denti stringersi, la spalla muoversi. l'avambraccio allungarsi e poi di colpo, come uno schianto, una sensazione di dolore fortissima, come di sangue che si gela, di libertà che esplode, come il sorriso di tua madre, le danze con i tuoi fratelli, le corse, le risse, le bevute con gli amici, come una dignità che se ha radici profonde non cade, come una dignità che se ha radici profonde non... Poi accaduto è che non sei morto. Hai ridicolizzato la loro retorica e non sei morto. Hai ridicolizzato le loro idee e non sei morto. Ha ridicolizzato la loro propaganda e non sei morto. Li hai sconfitti là, dove per loro la sconfitta fa più male, e non sei morto. Ma sai bene che spesso il prezzo che deve pagare chi ha osato batterli è più alto della morte stessa. Thank you. Ora sei solo, costretto a riconsegnare la licenza di pugile e abbandonato anche dal tuo manager. Ora sei affamato, costretto a combattere nelle fiere di paese in cambio di cibo, come un clown che... Ma ti ricordi quello? Una volta era un campione! Ora sei inutile, costretto dal Reich al servizio di lavoro obbligatorio, a spalare carbone per 12 ore al giorno, in cambio di un salario che non ti permette nemmeno la sussistenza. E ora sei sfinito, costretto a lavorare anche di notte nelle bettole di Hannover. E ora sei angosciato, perché improvvisamente in tutta la Germania gli zingari cominciano a sparire. E ora sei spaventato, perché con le nuove leggi di Norimberga il Reich ha vietato qualsiasi tipo di unione tra zingari e cittadini tedeschi. E ora sei terrorizzato, perché da poco hai conosciuto Olga, perché per la prima volta in vita ti sei innamorato, perché tu sei zingaro e lei è tedesca. E ora sei braccato, perché hai rifiutato la sterilizzazione imposta a tutti gli zingari, e perché ora sei padre di Rita, una splendida creatura di sangue misto che rischia la vita solo perché è tua figlia. E ora sei clandestino, costretto a nasconderti nelle foreste solo per non venir preso e schedato dalle SS. E ora sei carne da cannone, arruolato nella Wehrmacht nel 39 e subito spedito come tutti gli zingari in prima linea, in quanto considerati dall'esercito una perdita minore. E ora sei ferito, colpito a una spalla nel 42, subito spedito a casa per le cure mediche e immediatamente preso e interrogato dalle SS, perché ora è ufficiale. In funzione dell'eliminazione della vita sociale, il dottor Goebbels è dell'opinione che ebrei e zingari debbano essere senz'altro annientati e che l'annientamento attraverso il lavoro è senza ombra di dubbio la via migliore. Ora sei a casa di tua cognata Erna, ad Hannover. È il 1942. E da quando sei stato dimesso dall'esercito, ti nascondi lì. In questo istante hai tua nipote in braccio. State per andare a pescare. Lei adora venire a pescare con te. E tu quando puoi la porti sempre. Sempre come... portavi Rita, tua figlia. Rita, ormai sono 3 anni che non la vedi, da quando sei stato costretto ad abbandonare lei e Olga. Se non lo avessi fatto, sarebbero state prese e rinchiuse in un campo di prigionia con l'accusa di Rassenschande, l'offesa della razza. 3 anni che non la vedi e non c'è giorno in cui tu non ti chieda come sarà diventata, che cosa starà facendo. E se davvero lei e Olga sono riuscite a dimenticarti, come tu avevi chiesto loro di fare, come tu non hai potuto fare. La piccola ha fretta di andare e così, per convincerti a sbrigarti, comincia a darti tutta una serie di baci sul volto. Ed è in quel momento che fa irruzione la Gestapo. Tengono dei grossi cani al guinzaglio e li aizzano contro di te. La piccola, per la paura, si stringe più forte, ma loro la prendono, la sbattono a terra e con il calcio del fucile cominciano a colpirle violentemente le tempie. Tua cognata li supplica di non ucciderla, ma anche lei viene presa, sbattuta a terra e presa a pedate. Ed è in quel momento che reagisci. Non perché speri davvero di batterli, ma perché speri che almeno così facendo le loro attenzioni possano rivolgersi solo su di te. E allora parti, piazzi anche qualche buon colpo, come ai vecchi tempi. Ma poi è un attimo. Senti i loro colpi arrivare, al costato, al petto, alle tempie, sulla nuca. E poi, improvvisamente... Rita! Rita! Rita! Il giorno dopo, quando ti svegli, hai gli incisivi rotti, le borse di sangue agli occhi. Senti il dolore ovunque. Senti solo un SS che ti dice: Treumann, preparati, che domani ti portiamo a Neuengamme. E il giorno dopo, stippato in quel vagone di quel treno che sa di niente, diretto verso il nulla, ti rendi conto che l'unica cosa che ancora ti tiene in vita è la speranza di poter rivedere un giorno Rita. E così immagini di poterle parlare, di poterle dire: Rita, amore mio, io non vi ho abbandonato, non l'avrei mai fatto, ma se puoi Rita, perdonami. Per tutto ciò che non ho potuto. A Neuengamme c'è sempre musica, è ovunque, si infila nelle baracche degli internati, nella camera dolce, corre lungo le cucine, per poi salire in alto, fino al camino del crematorio, per poi aggrapparsi al fumo e salire fino al cielo. A Nottingham c'è un'orchestra che suona sempre. Sempre. Musica. Quando qualcuno viene bruciato o viene fatto sbranare dai cani. Musica. Quando i cadaveri vengono portati via. E musica più forte, più allegra, quando a morire sono i bambini. A Nottingham non hai più nome, perché a Nottingham non sei più nulla. Ora sei solo 9841 assegnato al comando di lavoro per la produzione dei mattoni. Te ne stai per 14 ore al giorno, immerso nell'acqua gelata, a spalare fango, a guardare gli altri morire affogati. E dopo poco più di 2 settimane, pesi 40 kg, sanguini, hai la diarrea, e sai questo che significa. Chi ha la diarrea a Nottingham muore. Chi ha la diarrea a Nottingham muore. Chi ha la diarrea a Nottingham muore. L'hai visto in tutti gli altri. E mai attirare l'attenzione di un SS a Nottingham. Mai attirare l'attenzione di un SS a Nottingham. Te lo sei sentito dire fin dal primo giorno in cui sei entrato. Ma questa mattina, sul piazzale dell'appello, il comandante di guardia ti ha indicato con la frusta. 9841, cane, tu una volta eri un pugile. Questa sera allenerai un paio dei nostri, giù, al lager dell'SS. Ed è così che è cominciata. Così che è finita. Tutte le sere, dopo il lavoro, con la diarrea che non passa, le SS ti aspettano. Ti danno una grappa, un pane e poi pugni. Pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni. Pugni, pugni, pugni, pugni, fino a 6 incontri a sera. E quando le costole non reggono, doppia grappa, doppio pane, e poi pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, e poi la baracca, le umido, le ulcere, il cielo, il sudore, e poi ancora pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, pugni, Rita. Tutte le sere, dopo gli allenamenti, eri solito portare il pane che avanzava ai detenuti più debilitati del tuo blocco. Ma quell'8 febbraio 1943, i tuoi compagni quel pane lo aspettano invano. Qualcuno dice che ad ucciderti siano state le SS. Qualcun altro invece semplicemente sostiene che tu sia morto per la troppa fatica. Il 9 febbraio 1943 il tuo nome viene ufficialmente iscritto sul libro dei morti di Nottingham. La causa del decesso recita: arresto cardiocircolatorio per broncopolmonite. L'orario del trapasso è stato fissato alle 6 del mattino. Sulle note si legge soltanto: al detenuto 9841, Johan Trollman, successivamente al decesso, sono state estratte dalla mandibola 3 corone d'oro. Un anno dopo, campo di lavoro di Wittenberg sull'Elba. Qui si lavora il fieno per la produzione di cellulosa. Qui le condizioni di vita sono pessime, ma comunque migliori rispetto a Neuengamme. Qui non c'è il crematorio e la quantità di cibo è comunque proporzionata alla fatica. Qui come capo viene spedito Emil Cornelius, un criminale comune con un passato da pugile dilettante. La fama che lo accompagna è quello di capo spietato e senza scrupoli. Per lui i prigionieri sono tutti uguali. Per lui i prigionieri sono solo scarafaggi da schiacciare. Un giorno d'estate del 1944, Cornelius comincia a fissare un prigioniero che trasporta il fieno. È convinto di averlo già visto. Ricorda il suo volto, la sua foto sui giornali. Lo ricorda sul ring. E lui dice di avere buona memoria per i volti. Lui dice: «Che Dio mi prenda! Se quel topo schifoso non è Rucheli!» Gli altri detenuti e gli altri capò gli dicono che sei morto, che ti ha preso un infarto un anno prima. Ma lui, da quel prigioniero che tanto ti somiglia, ci va comunque. «Di un po', uccello! Tu sei Rucheli! Quello che si credeva un campione! Mi dicono che sei morto, che ti ha preso un infarto, ma io le facce me le ricordo bene!» Il prigioniero, facendo di no con il capo, Cornelius allora gli sferra un pugno in pieno volto e il detenuto va a terra. «Che tu sia Rucheli o meno, voglio sfidarti, uccello! Voglio organizzare un incontro con te!» Il detenuto da terra continua a fare cenno di no con il capo. Cornelius prende un badile e comincia a picchiare violentemente sul capo un detenuto polacco. «Guarda qua, zingaro! Fin tanto che non accetterai di combattere, li ammazzerò tutti, uno a uno!» Il prigioniero supplica Cornelius di smetterla. Se questo significa salvare la vita ai propri compagni, accetterà. Combatterà contro di lui. Il giorno dopo, sul piazzale del Lager, è tutto organizzato. Un SS farà da arbitro e i detenuti in cerchio formeranno il ring. Cornelius è scatenato, sbuffa, sembra un toro. Al detenuto dice: «Spero davvero per te che tu sia Rucheli, topo! Altrimenti sei morto!» Il prigioniero non dice nulla. si rivolge all'arbitro e gli chiede una cosa, una soltanto. Gli chiede: le gambe le posso muovere?